Va bene, ci fermiamo qui. Ricordo però che dal 23 al 27 di giugno si svolgerà a Verona EcoSTP 2014, che è la conferenza mondiale dedicata alle frontiere del trattamento sulle acque reflue. Ci sarà Fattone, ci saranno tanti altri esperti da tutto il mondo. A domani.